La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al qualunquismo in politica e ai movimenti dell'antipolitica che cavalcano il malcontento popolare. Tra gli esempi nella storia d'Italia ricordiamo l'esperienza dell'uomo qualunque fondato da Guglielmo Giannini nel 1944. Ospite ai nostri microfoni lo storico Emilio Gentile. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Nulla ha potuto e può sostituire il ruolo dei partiti nel rapporto con le istituzioni democratiche. Occorre allora impegnarsi perché i partiti ritrovino slancio ideale, tensione morale, capacità nuova di proposta e di governo. È questo che occorre, senza abbandonarsi a una cieca sfiducia nei partiti come se nessun rinnovamento fosse possibile e senza finire per dar fiato a qualche demagogo di turno. Lo scorso 25 aprile, celebrando a Pesaro l'anniversario della liberazione, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha liquidato con queste parole i cosiddetti demagoghi di turno che cavalcano l'antipolitica all'insegna del qualunquismo. Lo ha fatto con il chiaro intento di riferirsi al movimento di Beppe Grillo e citando l'esperimento dell'uomo qualunque, il movimento fondato da Guglielmo Giannini nel 1944, uno dei molteplici casi dal secondo dopoguerra ad oggi di movimenti politici di destra o di sinistra che fanno leva sul malcontento popolare e l'indignazione contro la classe politica. In realtà si trattò, come ha ricordato lo stesso Napolitano, di un'esperienza molto breve. Alla fine del 1944 l'Italia è spaccata in due. Sul fronte interno, i sei partiti antifascisti del Comitato di Liberazione Nazionale fanno fronte comune nella lotta al nazifascismo. Ma c'è chi considera i politici antifascisti per nulla diversi, in malcostume e velleità dittatoriali, dai loro predecessori fascisti. Il 27 dicembre viene pubblicato il primo numero di un nuovo settimanale. Tiratura 80.000 copie. Si chiama L'Uomo Qualunque. Questo non è un giornale umoristico, si legge in una nota all'interno del settimanale. Non è un giornale frivolo, è un giornale dell'uomo qualunque, stufo di tutti, il cui solo ardente desiderio è che nessuno gli rompa più le scatole. Questo giornale non è organo di nessun partito. Assistiamo in Italia all'ignobile spettacolo di un arrivismo spudorato, al brulicare di una verminaia di ambizioni, a una rissa feroce per conquistare i posti di comando dai quali poter fare il proprio comodo e i propri affari. L'uomo qualunque non partecipa a questa rissa. Personaggio controverso, Guglielmo Giannini, una sorta di battitore libero che avversa i professionisti della politica nel chiaro intento di dar voce a quella massa di italiani sfiduciata e senza grandi ideali che ha subito il fascismo senza avere la forza o il coraggio di opporsi e che ora non si sente rappresentata dalla nuova classe dirigente. Antifascismo e fuoruscitismo pretendono, come il fascismo, il diritto a sopprimere concorrenti e chiunque altro sia d'impaccio o fastidio. Il fascismo ha offeso e ferito tutta la massa degli italiani, non soltanto gli antifascisti e i fuoriusciti. Sono i 45 milioni di esseri umani che hanno il diritto di fare giustizia, non una più o meno numerosa quota parte dei 10.000 politicanti ansiosi di rifarsi delle delusioni subite. Ci vogliono strade, mezzi di trasporto, viveri, una moneta modesta ma seria. Per questo basta un buon ragioniere che entri in carica il 1 di gennaio, che se ne vada il 31 dicembre e non sia rieleggibile. In realtà il movimento di Giannini ebbe, come sappiamo, vita breve. Dopo l'affermazione ottenuta nel 1946, nelle successive elezioni politiche del 18 aprile del 48, la coalizione tra qualunquisti e liberali ottenne il 3,8% dei voti. Il movimento dell'uomo qualunque si scioglie quindi nel volgere di pochi mesi, confluendo nelle sue componenti maggioritarie nel Partito Nazionale Monarchico e nel Partito Liberale. Qualche altro esponente minore aderisce al neonato Movimento Sociale Italiano. Allora, di questi eventi lontani e che tuttavia sono di stretta attualità, come abbiamo ascoltato dalle parole del nostro Presidente della Repubblica, parliamo con lo storico Emilio Gentile. Buonasera, professore. Buonasera. Allora ci aiuti, professore, a capire e anche a contestualizzare meglio la figura di Giannini, certo nel contesto politico di allora, quindi dell'immediato dopoguerra, con eventuali affinità o diversità rispetto a quello che accade oggi. Guglielmo Giannini non era un politico, non aveva fatto mai attività politiche, ma era un commediografo, uno sceneggiatore piuttosto popolare, scrittore di romanzi gialli e di romanzi d'appendice durante il periodo fascista. Non era stato coinvolto direttamente col fascismo, aveva perso un figlio durante la seconda guerra mondiale, alla quale lui era contrario, non perché fosse pacifista, ma perché sapeva già dall'inizio che sarebbe stata una guerra persa, e quindi non aveva nessuna simpatia per il fascismo, ma soprattutto, più in generale, non aveva nessuna simpatia per una classe politica che in nome di grandi ideali, di grandi ideologie o di grandi entità, che siano lo Stato, la nazione, la patria, il partito, manda la gente comune a morire senza sapere nemmeno perché, come era accaduto forse a suo figlio, che muore, come dicevo, nella seconda guerra mondiale. Quindi questo lascia probabilmente un'impressione molto profonda in Giannini, il quale inizia la sua attività politica in realtà per il successo che ha il suo settimanale Uomo Qualunque, che, come avete citato, nasce alla fine del 1944 con 80.000 copie, ma arriva fino addirittura a 800.000 copie, quindi sintomo di un malessere diffuso nella società italiana, ancora lacerata dalla guerra civile che durerà fino al 1945, e che trova probabilmente in questo uomo che con un linguaggio scurrile, caricaturale, ma efficace, semplice e banale, fa appello al buonsenso per dire basta con le ideologie, basta con i grandi ideali, basta con patriottismo, nazionalismo, comunismo, fascismo e antifascismo, e cerchiamo di vivere una vita normale, anche banale, quella proprio dell'uomo qualunque, che nello stemma del giornale, poi di quello che sarà il fronte dell'uomo qualunque, il partito che nascerà nel 1945, è rappresentato da un piccolo omino che viene schiacciato in un torchio, il torchio dello Stato, il torchio delle tasse, il torchio della privatizzazione. E soprattutto poi Giannini dà un suo orientamento politico al movimento, scagliandosi contro quella che lui chiama la esarchia, cioè il dominio politico dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, che nessuno aveva eletto, ma si erano autonominati i creatori del nuovo Stato, proprio in nome delle ideologie, proprio in nome di ideali di rinnovamento che avrebbero dovuto rimobilitare di nuovo i cittadini. Ecco, in Giannini c'è questa volontà di sfruttare un'antipatia radicale e profonda per tutte quelle idealità che avevano sacrificato la gente comune. Lui si fa paladino dell'uomo qualunque. Eppure, professore, quando questi partiti cavalcano l'antipolitica dall'esterno, se vogliamo, del mondo politico stesso, riescono ad avere una presa, e non c'è dubbio, perché cavalcano il malcontento, lo faceva allora Giannini, oggi altri movimenti in Italia e in Europa, lo stiamo vedendo in queste settimane. Però poi, quando questi stessi movimenti si avvicinano al palazzo, diventano in qualche modo essi stessi formazioni rappresentate, entrano nella logica che poi loro stessi hanno in qualche modo avversato, come abbiamo visto dalla storia dell'uomo qualunque. Beh sì, in un certo senso questo accadde all'uomo qualunque, perché il movimento, il fronte dell'uomo qualunque, che pure ebbe un successo strepitoso per le elezioni dell'Assemblea Costituente, circa oltre 1 milione di voti e una 30ina di deputati, che poi confermò nelle elezioni amministrative conquistando oltre 1.300 consiglieri e importanti comuni, ma alla fine poi cominciò a disgregarsi per due ragioni, è curioso. Uno fu il fatto che alla fine del 1946 ci fu una sorta di scambio di amorosi sensi fra Giannini e Palmiro Togliatti. Sì. Giannini attenuò l'anticomunismo, che era una delle bandiere principali dell'uomo qualunque, per dire che in fondo bisogna guardare anche agli anticomunisti, anche ai comunisti, e vedere ciò che c'era di buono. E Togliatti, con un articolo sull'Unità, diede credito a questo messaggio che gli lanciava Giannini. E questo mise in crisi un movimento che invece si fondava prevalentemente sull'anticomunismo di una classe, poi è un movimento tutto meridionale di possidenti, di borghesie, quindi decisamente anticomunista. E la crisi cominciò anche perché nel maggio del 1947 uno dei deputati, uno degli esponenti dell'uomo qualunque, Achille Rauro, si disse che fu comprato dalla Confindustria e dalle manovre di De Gasperi, e fece votare il gruppo del fronte dell'uomo qualunque per il sostegno al governo democristiano, mentre Giannini fu contrario. Quindi potremmo dire che si discusse anche allora di De Gasperi, che avrebbe offerto dei ministeri oppure che non li avrebbe offerti, ma Giannini avesse avesse chiesto dei ministeri e De Gasperi li avrebbe dati. Quindi diciamo che la logica politica nel momento in cui si entra in quella che si chiama la stanza dei bottoni, anche se in modo più nobile il Parlamento non è la stanza dei bottoni ma la Camera dove si discutono e si approvano le leggi, finisce col esaurire quella che è la carica eversiva del malcontento per farlo poi confrontare con la realtà della politica. Ecco, infatti quello che dicevamo prima nel ricordare come poi questi movimenti quando cavalcano dall'esterno il malcontento è un conto e poi dopodiché bisogna vedere che fine fanno quando vengono assorbiti nella logica del potere. Professore, la ringrazio molto e buona serata. Buonasera a lei.